prove tecniche di trasmissione anche per questo 22 marzo del 2023. Ricordiamo il sito della radio che è www.ondarossa.info. Il sito, oltre a contenere notizie importanti e interessanti, contiene anche le varie modalità di adesione per quanto riguarda la possibilità di sottoscrizione per questa realtà che dal lontano 1977 è assolutamente autogestita e priva di qualsivoglia forma di pubblicità. Il palinsesto prevede 25 o'clock intorno alle 22.30, quindi vado a fare un rapido giro di saluti a tutti quelli connessi sul nostro sito all'ascolto delle frequenze. Ernesto Brusati di Panico da Palcoscenico da Varese, Maya in Sardegna come Nicola Locci, Anna qui a Roma, Tiziano Farinacci di Pigreco, Doriana Panico a Taranto. Salutiamo Marco Milanesio. Famoso produttore, musicista ormai da molti molti anni. Abbiamo il medico della peste, Massimo Allatina, Orlando Furioso in quel di Torino. Ad Arlen Simona, Moschita de Miramare, Olanda, Francesco Cornello, Bergamo. Un saluto ad Alberto Clipper, Simone Scalese di Audio Cause. Un saluto a Venusia Stramonio che ci sta ascoltando dalle Marche, Alfa Privativa e Cupio Dissolvi, progetti che presto ascolteremo qui a Prove Tecniche di Trasmissione. Abbiamo anche Antonio Zovit di Omicidio, fedelissimo. E infine Cecilio Miradoli di Pindar, Cecilia Miradoli di Pindar. Sisto Palombella, talentuoso suonatore di fisarmoniche. Eresia Rex che ci sta ascoltando da Brescia, Like a Wake qui a Roma, Jean-Claude Bertot in Val d'Aosta. E ora iniziamo. Finire del 2022, un nuovo lavoro per Lucia Cagliazza in arte Lupsi, affezionata ascoltatrice nonché ottima musicista di area sperimentale, anche se a quest'area applica la sua perizia come chitarrista. E quindi ci tuffiamo nelle sue atmosfere anche oniriche, se vogliamo, molto evocative, contenuto in questo High and Deep uscito sul finire dello scorso anno. Lo cominciamo a conoscere e spero ad apprezzare con Blue and White e Atlantis. Due momenti emozionalmente assai diversi tra di loro, queste due tracce da Aing and Deep. Ultima fatica per Lupsi, ossia Lucia Cagliazza. Blue and White, effettivamente, come ci dice Anton Zovet, un bello trip onirico, un viaggio onirico. La seconda proposta, Atlantis, invece, svisate di chitarra, quasi direi anche abbastanza anomala per un artista come Lucia Cagliazza, ma che comunque hanno sanzionato un cambio decisamente di registro per quanto riguarda quest'artista. Cosa che accade in questo Aing and Deep? Saluto Giuseppe Verticchio di NIM. Sisto Palombella chiede: che vuol dire Monte Cagliazza? In realtà stiamo scherzando con Monte Cazazza, che è un progetto industrial. C'era il pericolo che Lucia Cagliazza si prestasse a qualche scherzo per quanto riguarda il suo cognome. E caro Sisto Palombella, sei talentuoso, non taluntuoso, ma talentuoso con la E in mezzo, quindi talento, quindi ottimo suonatore di fisarmonica. Ma questo lo sappiamo, lo sanno tutti quelli all'ascolto, e anche lui presto ce lo riascolteremo da queste parti. Adesso andiamo alla Nella e alla Dissipazio, una etichetta molto interessante fondata da Nicola Quiriconi, che, alla quale partecipano come progetto molti, molti artisti interessanti, italiani e non solo. Intanto stavamo chiacchierando con 25 O'Clock, che andrà in onda alle 22:30, mentre andava ancora Lupsi. Dicevo, Dissipazio, mentre vado a salutare Prozac. Prozac è stato uno spazio qui di Radio Onda Rossa, è da queste parti, lo salutiamo in diretta, dunque un saluto a Prozac. Noi dicevamo della Dissipazio, la menzioniamo perché questa sera ci andiamo ad ascoltare il ritorno di un progetto che sarà assente per qualche anno e che porta il nome di Satan is My Brother, che si è appunto accasato con questo ritorno con l'etichetta di Quiriconi. L'album in questione si chiama How Far Can You See, un album dove prevale il jazz oscuro, quasi della scuola di Macellia Mobili di Mezzanotte, o come l'ultimo lavoro per esempio di Cristiano Bocci. Quindi indubbiamente un afflato sperimentale, ma ciò che si potrà apprezzare a cominciare dalla strumentazione è anche questo approccio decisamente anche jazzistico. Questa sera apriamo l'analisi di questo album con la prima traccia che porta il nome di Intro e la quarta che porta il nome di Intermezzo. questa era l'ultima fatica riguardante per l'appunto Satan is my brother. Se non sbaglio, ritorno dopo ben 8 anni, si chiama How Far Can You See? Atmosfere ultra cupe che poi vanno a sfociare in questo jazz, anch'esso decisamente oscuro, molto umbratile, con questi disturbi digitali in sottofondo. Una produzione che sta effettivamente bene nel vasto panorama della Dissipazio, questa etichetta fondata da Nicola Quiriconi, che vado a salutare, come saluto Luca. Forse all'ascolto che insieme a Stella, Alessandro e Simone si dilettano nel suonare trombone, sintetizzatori, ma anche sassofono, clarinetto, batteria, basso e anche naturalmente molti effetti elettronici. Ci siamo ascoltati intro e intermezzo. Saluto a Noise Cluster con Flavio Derbecante, Arianna Degni Lombardo, Patrizia Carpi. Ma volevo menzionare una serata che si terrà qui a Roma il prossimo 25 maggio. Un doppio concerto con Olympian Gossip, un progetto ripreso che vede sul palco Tiziano Lo Conte, Roselux ex Gronge, Alessandra Trinity Bersiani e Valerio Michetti, anche della Grazia Obliqua, e Marco Della Rocca, anche lui di Roselux. Situazioni elettronico-industriali, al quale seguirà invece il portato più post-punk con Paolo Tabaglione, Ascanio Borga e Cristiano Luciani, rispettivamente come Cariglion del Dolore, Ascanio Borga con una vasta carriera di sintesista, e Cristiano Luciani, anche lui musicista di area sperimentale, insieme fanno X-Men. Alla fine del tutto una selezione musicale del sottoscritto. Ho detto maggio, forse 25 marzo, sono andato un po' troppo in là, quindi 25 marzo, sabato prossimo. Ringrazio Anna della correzione. Chiaramente chi è interessato può andare su internet e cercarsi il luogo fisico dove si terrà tale evento. Altro evento interessante sarà il 15 aprile, sempre qui a Roma, con Adriano Vincenti di Macelleria Mobili di Mezzanotte, insieme a Paolo Bandera di tanti progetti di aree sperimentali qui italiane, due vecchie conoscenze dunque, insieme all'altrettanto storico Like Awake e Daniele Ciullini, anche loro appartenenti alla vecchia scuola dell'industrial e dark ambient. Si parlerà e si presenterà una compilation dal nome Ossido di Cromo. E anche qui, dopo questi 4 live, ci sarà un 17 con il sottoscritto e il Noctibus Panis, altro programma di questa emittente. Questo il 15 aprile. Dopo l'Italia, con la quale abbiamo iniziato, andiamo in Grecia, naturalmente sfruttando la compilation di Raffaele Pezzella, questa Anthology of Contemporary Music from Greece, che fa il punto della situazione della scena greca, quella più sotterranea e naturalmente sperimentale. Compilation eclettica, come dovrebbero essere le compilation ideali, se hanno l'ambizione appunto di segnare e di descrivere un contesto. E allora Andreas Monopolis con MOCM e Adarca con For Us Who Never Smiled. questa sera abbiamo concluso il viaggio che abbiamo intrapreso in Grecia sfruttando l'ottima compilation di Raffaele Pezzella, Anthology of Contemporary Music from Greece. Lo abbiamo concluso con Andreas Monopolis, incursioni elettroniche che poi si sono trasformate in un apoteosi di breakbeat finale, anche lì però con vaghi contenuti di jazz, e l'ossessiva For Us Who Never Smiled di Adarka, uno degli innumerevoli 15 artisti per precisione che hanno popolato questa compilation che ci ha tenuto compagnia in queste settimane. Saluto Alessandra Monterotondo. E anche Valentina. Ci abbiamo Vunus Island e Filippo Panichi anche da salutare, colonne dell'industrial italiano. Torniamo al Dissipazio di Nicola Quiricone, rappresentata con un'altra uscita, anche questa recentissima, di Luca Giuoco, anche lui valente artista sperimentale italiano. Si chiama Collettivo Inconscio Volume 1, che in realtà è una sorta di collage che vede la partecipazione in fase di stesura finale di tantissimi artisti che ognuno di loro ha donato, diciamo, un frammento della loro arte per andare a costruire questa circa una decina di tracce di questo lavoro. Si vanno a ringraziare Arlo Bigazzi, Mirko Salvatori, Gianluca Becuzzi, Daniele Santagiuliana, Davide Borghi, Rosa Lavita, eccetera eccetera. E quindi lo cominciamo a sentire con Hell Aisedor e Otaru no Ido. Effettivamente una bella produzione di Luca Giuoco, che vado a salutare, come dice giustamente Marco Milanesio, che ovviamente, essendo un prezzemolo veramente storico, ha partecipato anche qui. Sono tanti gli artisti che hanno donato un pezzo della loro arte che è stata assemblata e ricostruita da Luca. Ne cito qualcun altro: Adriano Zanni, Alessandro Ragazzo, Alice Kundalini, Antonio Tognetti, Braconide, Daniele Bogon, Daniele Santa Giuliana, eccetera eccetera. Gli altri li diremo magari prossimamente, sono veramente molti. Abbiamo anche qui Nicola Locci. Lupsi stessa mandata all'inizio trasmissione, eccetera, veramente molti, per un ottimo collage sonoro che chiaramente ci ascolteremo anche il prossimo mercoledì. Aleggia lo spettro dei Call, giustamente, caro Antonio. C'è anche una collaborazione, mi fa piacere che Ernesto, e lo ringrazio, Ernesto Brusati, ce la dica. Proprio una collaborazione tra Panico da palcoscenico e lo stesso Luca Giuoco. Andiamo di nuovo via dall'Italia, non ci allontaniamo di molto, ma andiamo in Slovenia. E molti chiaramente intuiscono che parleremo dei Laibach. Sketches of the Red Districts, con il quale hanno aperto questo 2023, un ottimo album che recupera le atmosfere iniziali, quelle più cupe e marzial monumentali, come si suol dire. Ci ascoltiamo Moralna Zaslomba e Smrtin Pogin. Thank you.